abusaré. Dimmi come fai. Per niente facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei? Forse metterti nei guai, io non riderei. Ma poi non so quando non ci sei.